24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Una forte personalità, zero scheletri nell'armadio e una capacità di maneggiare le questioni istituzionali che derivi dalla sua esperienza nelle istituzioni. Nel giro delle consultazioni ne sono emerse alcune in maniera abbastanza comune in tutte le delegazioni. Abbiamo ipotizzato di dare un segnale culturale non tanto al palazzo che si sta avvitando su se stesso. Una persona che non è né della Lega, né di Fratelli d'Italia, né di nessun partito, che si chiama Vittorio Feltri. Indicato Prodi e noi, per rispettare quello che abbiamo scritto nella mail a tutti i deputati del PD, metteremo in votazione anche Prodi. Mattarella, on.Mattarella, Sergio Mattarella. Mattarella 665. Onorevole Pierluigi Castagnetti, buongiorno. Buongiorno. L'ultimo segretario del Partito Popolare, il partito del presidente Mattarella. Per molti è stato lei kingmaker del presidente. Adesso è stato eletto, abbiamo sentito questo applauso scrosciante. Si può dire com'è andata? No, guardi, l'iniziativa e il merito di questa operazione è tutta di Renzi. Non aveva bisogno Renzi di sollecitazioni. Io credo che Mattarella sia stato eletto perché la Repubblica in questo momento, dopo la presidenza di Napolitano, ma soprattutto di fronte ai problemi che abbiamo, aveva bisogno e ha bisogno di un presidente di primo livello. Ecco, ma com'è nata, onorevole Castagnetti, com'è nata allora la notizia che lei ha avuto un ruolo nella scelta di Mattarella? Certo, la vittoria di Renzi non c'è dubbio politicamente, ma stiamo parlando di queste, no? Nascono queste candidature, si sviluppano, poi vengono recepite e fatte proprio da chi fa la politica in primo livello. Ma com'è nata questa notizia? Non ho la minima idea, guardi, non ho la minima idea. Che io sia molto amico di Mattarella è questo sicuro, sì. Che fosse circolato fra i tantissimi, numerosissimi, anche il mio nome, sì, e che io e Mattarella ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto, beh, insomma, non scherziamo. E io ho detto a Sergio, guarda che se c'è la possibilità c'è solo per te, perché il tuo curriculum, la tua storia, la tua biografia, la tua competenza specifica, insomma, è un giurista al Quirinale, insomma, ecco, fanno di te il candidato ideale. Guardi, ci sono alcuni nomi, Mattarella, Amato, che erano apparsi anche in occasione dell'elezione del bis di Napolitano. Di Napolitano, certo. Ma si impongono per il loro curriculum. Per il loro curriculum, sì. Per la loro storia, insomma, ecco, per quello che hanno già fatto e hanno dimostrato di saper fare per la Repubblica. Quindi il nome di Mattarella non l'ha posto nessuno sul tavolo, era oggettivamente sul tavolo. E secondo lei perché Mattarella non Amato? Ma immagino che il Presidente del Consiglio, insomma, preferisse una persona meno discussa, insomma, che gli creava anche sotto questo profilo meno problemi, insomma. E ma poi, meno discussa in che senso? Vabbè, che il nome di Amato, ingiustamente, io lo dico con assoluta franchezza, ingiustamente, ecco, sia stato oggetto in questi anni di polemiche da varie parti, insomma, ecco, nell'opinione pubblica, con delle storie che non avevano nessuna ragione, insomma, perché io stimo moltissimo Amato e credo che anche Amato sarebbe stato un grande Presidente della Repubblica. I due curricula di Mattarella e Amato si assomigliano moltissimo, insomma, ecco. È stato scelto Mattarella probabilmente perché c'era anche una sensibilità. Il presidente Renzi sentiva anche una maggiore affinità culturale, insomma. Ecco, parliamo di questo. Senta, onorevole Castagnetti, lei appunto è molto amico di Mattarella, l'ha detto. Sarà secondo lei però un presidente accomodante o sorprendente per Renzi? Ma guardi, Mattarella è sempre stato uno che nella sua trentennale storia di impegno politico che ha lavorato per risolvere i conflitti, non per aprirne. Immagino che sarà fermo nel difendere la Costituzione, ma cercherà di evitare, cioè di prevenire possibili errori. Diceva la Boschi ieri: noi siamo giovani, abbiamo bisogno di uno che ci guidi in qualche modo. Ma non c'è dubbio che è un presidente che ferma la distinzione e la separazione dei poteri, su questo sono sicuro che sarà intransigente. Ecco, però sono... Non invaderà e non vorrà che sia invaso il suo spazio. Ecco. Però restando a questo, accompagnerà sia il Parlamento che il Governo nel processo di riforme avviato. Però sono due personalità, all'apparenza almeno caratterialmente, sembrano veramente opposte. Si capiranno? Sì, si capiranno, sono in un qualche modo complementari, ma finiranno per capirsi, perché proprio per questa attitudine di Mattarella di, come dire, di non esibirsi, di non cercare la popolarità, gli interventi di Mattarella saranno sempre finalizzati proprio a difendere la Costituzione e l'interesse degli italiani. Abbiamo... Il Presidente del Consiglio ne può stare sicuro, insomma, che non ci sono altre finalità, neanche Napolitano aveva altre finalità, sia chiaro. Ecco, ma Mattarella ha questa caratteristica, insomma, ecco, di aiutare a prevenire possibili. Senta, abbiamo uno ascoltatore, Andrea da Prato, che dice: Renzi, se non indicava Mattarella, saltava. Questa è la verità. Saltava ad opera di chi? Rispondiamo ad Andrea. Non credo che saltasse nella maniera più assoluta. Ecco. Ma vabbè, lui ha dato una prova, parlo di Renzi, ha dato una prova di essere un politico di razza, però ho detto lo faccio al quarto, un nome secco, e al quarto c'è stato il nome secco ed è stato eletto. Questo è una novità assoluta anche nel modo di fare politica. Io dico che Renzo è un barbaro, e lo dico in positivo, perché ha una determinazione anche di natura diversa. Ecco, però, per non essere retorici, in questo momento c'è la tendenza, no? Quando ci sono le elezioni, tutto bravo, tutto bello. Però, insomma, ombre, per esempio, il discorso di Pio La Torre nella relazione di minoranza sull'operato del padre di Mattarella è una cosa che resta agli atti. Guardi, però è stato ampiamente superato da delle sentenze del Tribunale che hanno ampiamente dimostrato non solo l'estraneità ma la lotta alla mafia. Lei deve sapere che il padre Bernardo Mattarella ha portato la famiglia a Roma all'inizio del dopoguerra, perché le sue posizioni erano posizioni contrastate da ambienti molto inquietanti. Quindi lei dice la relazione di Pio La Torre, che peraltro è stato ucciso poi. Mattarella ha cominciato, era vice segretario di De Gasperi, non si dimentichi questo. De Gasperi ha scelto due vice segretari nell'immediato dopoguerra, Mattarella per il sud e Dossetti per il nord, che fossero illibati, indiscutibili, scelti con una colottezza. Okay. Quindi anche questo è superato, dubbio, secondo lei. Senta, onorevole Castagnetti, per esempio, però, diciamo, due personalità opposte, si capiranno, lei dice sì, sarà necessario, però per stare nel concreto, la norma del 3% sull'evasione fiscale che Renzi ha solo rinviato, il ministro Boschi ieri ha detto non credo si possa fare o non fare una norma che riguarda 60 milioni di italiani solo perché riguarda anche Berlusconi. Significa che il governo andrà avanti e Mattarella firmerà? Guardi, io ho l'impressione che questa norma, non ho informazioni, ecco, sì, l'ho preciso, Ma ho l'impressione che questa norma sarà riproposta non negli stessi termini che abbiamo conosciuto la sera del 24. Mm. Io credo che il reato di frode non sarà compreso nel 3%. Senta, fuori di retorica sempre, se riusciamo, quale può essere il valore aggiunto specifico di Mattarella nell'istituzione? Lo chiedo perché si è parlato molto della necessità di avere un Presidente della Repubblica che pensasse, che avesse peso, anzi, sul piano internazionale. Mattarella ha queste caratteristiche per avere questo ruolo? Guardi, si è detto che Mattarella non è conosciuto all'estero. Non è vero. Mattarella è stato Ministro della Difesa in due governi, ha coordinato il dossier come Ministro della Difesa di unificazione degli stati maggiori, di coordinamento delle forze armate di tutti i paesi, non solo dell'Europa ma della NATO. Quindi lei dice che non c'è questo problema. Come vicepresidente del Consiglio ha fatto parte del bureau di comando, di guida del Partito Popolare Europeo, la Merkel e Juncker li conosce benissimo e si conoscono benissimo. E poi è vero che parla bene inglese? Parla benissimo il francese e l'inglese lo utilizza, ma non si trova a proprio agio come col francese. Senta, le prime parole di Mattarella sono state... Non dimentichi questo, direttore. Io ho conosciuto nella mia esperienza politica delle persone. Helmut Kohl parlava solo tedesco, Merkel parla solo tedesco, sì. Putin parla solo russo. Voglio dire, il protagonismo sul piano internazionale non è fatto dalla sostanza dei contenuti. Se vuole che le dica, auspico che i leader dei vari paesi, soprattutto i nostri, parlino la lingua madre. Senta, perché altrimenti se non la parlano loro non si capisce chi la deve parlare. Senta, le prime parole di Mattarella sono state dirette a chi soffre, chi non ce la fa. È il segno lì della sua ispirazione cristiana? Assolutamente sì. Ecco, sono parole molto simili a quella che Giorgio Lapira, quando si è insediato come sindaco di Firenze, disse. Ecco, quello può essere un punto di contatto tra il fiorentino Renzi e il siciliano Mattarella? È possibile, sicuramente. Da parte mia è anche auspicabile, non c'è dubbio che c'è una matrice comune. Mattarella appartiene a quella generazione di cattolici democratici che si sono formati ai grandi padri, no, perché appunto Renzi ha la foto di Lapira nella sua ha fatto quindi, anche la tesi di laurea, quindi credo che anche la sua potrebbe essere un punto di incontro. Cioè, insomma, dopo i democristiani nella DC è arrivato il momento dei democristiani senza la DC. Saranno meglio senza la DC che con la DC? I tempi sono cambiati e i tempi che viviamo impongono che non ci sia più un partito organizzato su una base confessionale, perché non ci sono più le ragioni storiche. Certo. Che l'avevano. Senta, ma per fare quel partito della nazione di cui tanto si parla, lei ci crede? Ma guardi, le maggiori forze politiche dovrebbero essere tutti, come preferiva dire Nino Andreatta, dei country party, cioè dei partiti che sentono la responsabilità di rappresentare l'ampiezza e l'unità del paese. In questo senso io credo che debba essere letto anche il tema del partito della nazione, non il partito unico, partito che abbia la cultura di rappresentare oltre i confini della propria militanza. Onorevole Castagnetti, c'è Mario Seghi che ha una domanda per lei. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Allora, ma intanto Mattarella secondo me ci sorprenderà sotto molti aspetti. Sì, credo. Penso che lei sia d'accordo su questo. E poi l'altra cosa che viene fuori chiaramente è che, insomma, da Beppe Fioroni all'area Dem di rappresentata appunto da Fioroni Valiante, lei ed altri, insomma, la DC non è mai morta, o no? Guardi, no, la DC è finita, potevi scusare questa espressione, è finita perché non ci sono più le condizioni storiche. Ma i democristiani sono belli vivi. Appunto, democristiani senza DC. Ecco, ma quella è stata una grande scuola di cultura politica. Senza Guardi, dubbio. C'era una lettera, c'è una lettera bellissima, una corrispondenza tra Etli, il successore di Churchill e De Gasperi, in cui il presidente britannico chiedeva a De Gasperi: ma questo vostro partito mi incuriosisce, mi intriga, ma quando finirà? E De Gasperi gli rispose: guardi, finirà il giorno in cui questa cultura politica sarà patrimonio di del tutti paese. Bene. Mi pare che possa. È una risposta. Questo. Grazie, onorevole Castagnetti. Grazie, arrivederci. 800 24 00 24, il numero verde naturalmente, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, Alessandra Fiori. Alessandra Fiori è una giornalista, una nostra collaboratrice, una scrittrice, l'autrice di un romanzo, Il cielo dei potenti. E il romanzo racconta un cinquantennio di potere democristiano visto dall'interno, una confessione cruda, cinica, anche sboccata, però vera e ancora viva. Ecco, tu Alessandra sei figlia di un ex politico democristiano, quando hai avuto l'ispirazione per scrivere un romanzo così feroce? Era il 2010, il periodo del che fai mi cacci di Fini a Berlusconi, insomma una guerra di potere aperta, e io trovo che il potere sia un tema molto affascinante perché tira fuori le contraddizioni. Allora intanto si parlava fine della prima repubblica, la seconda, cosa è cambiato, cosa non è cambiato, e io avevo molti ricordi, ho detto ma mettiamo insieme le due cose, sì, il potere... Mamma saranno stati contenti di quello che hai scritto, ma papà è un democristiano, quindi si è divertito. Senti, a un certo punto nel tuo romanzo il tuo protagonista dice: alla logica del compare nessuno sfuggiva, nemmeno i più potenti, era la logica del paese. Ecco, ma che cos'era la logica del compare, Alessandra? Beh, innanzitutto il compare è il gestore di voti per professione, quindi la logica è quella del do ut des, ovvero io ti porto 90 tessere da Borgata Finocchio e tu mi trovi il posto in ospedale, il posto di lavoro, mi raccomando il figlio al concorso. Però dall'altra parte i politici avevano molto bisogno dei compari, quindi i loro uffici, le segreterie erano un insomma ufficio si chiamavano di... capi bastone, quella sì, roba lì, sì, sì. Non è cambiato molto. Ma... Beh no, un po' è cambiato invece, perché adesso la legge elettorale vengono ci sono delle nominate. Liste e quindi il radicamento sul territorio è diverso, nel bene e nel male. Senti, ma che cosa ha colpito la giovane romanziera dell'essere democristiano? Soprattutto i contrasti e il modo di contenerli, ovvero le correnti e l'arte del compromesso, quel modo di vivere per cui ci si prende a braccetto anche in guerra, anzi soprattutto in guerra, quello mi ha colpito. Più ti odi e più ti abbracci? Sì. C'era un modo di vivere particolare. Beh, sì, sicuramente proprio. Sì. Senti, ma ci voleva proprio un ex democristiano rottamatore come Renzi per trasformare l'ora del rimpianto, un rimpianto in bianco e nero, in una speranza a colori come quella che è riuscita a dare su Mattarella? Beh, forse sì, perché da una parte vero leader, però vero democristiano, voglio dire il patto del Nazareno da una parte e l'elezione di Mattarella dall'altra. E poi da scrittrice, secondo me, il rimpianto è un sentimento molto romantico, quindi aiuta. Ispira il prossimo romanzo di Alessandra Fiori, non si sa. Non si sa. Boh, vedremo. Si vedrà. Mix 24. Buon inganno il viso, la voce la puoi mascherare, ti puoi mettere in ginocchio per sembrare pentito, gli occhiali ti possono cambiare. Partecipazione di Pietrangelo Buttafuoco dal suo letto di dolore dopo il trionfo a Palermo dello spettacolo Buttanissima Sicilia, che l'ha distrutto praticamente. Buongiorno. Buongiorno. Allora questa? Questa non arriva dalla metropolitana. No, non arriva dalla metropolitana, però è un suggerimento dato da Etna in persona, che è totalmente preda di una magia di fuoco e neve, tanto da sembrare proprio come le mani che disegnano la laboriosa fantasia, l'operosa delizia che sanno ricavare da quel trafficare di fuoco e di neve. E siccome le mani, come canta Lele Battista in questa canzone, non tradiscono mai, le dita sono quelle che portano in dote la leggerezza, e tra tutte le esperienze possibili solo le mani sanno convocare l'impossibile, perché a differenza dello sguardo le mani non cambiano. riparano le orecchie dal rumore e diventano ali, sicché le carezze diventano ellissi che s'alzano dove si fa esperienza di fuoco e di neve. La malattia gli fa bene, eh? Con le mani ti riparo le orecchie dalla città che esplode. E nella tua pentola oggi cosa bolle? Bella musica. Bella. Dove saranno tutti gli amanti che hai? Dolce mobili. Questo è un pezzo straordinario, un pezzo che ha fatto la storia della musica italiana, un progressive rock. Banco del Mutuo Soccorso, che ha perso il suo grande cantante. Riceviamo oramai sms fa. Che vogliono la tua playlist, la mia playlist firmata, perché la sono facciamo. Appassionati. Va bene. E allora? La e allora il Moby Dick, la balena bianca, certo. La Democrazia Cristiana, no? E tutti si chiedono che presidente sarà, l'ha detto anche Castagnetti poco fa, certamente diverso da come ce lo immaginiamo, è diverso anche secondo me da come se lo immagina un po' Renzi. E quelli del quarto scrutinio, cioè tutti i presidenti eletti nel quarto scrutinio, sono stati presidenti dal carattere complesso e a tratti duro. Einaudi nel 48, vabbè, fu un punto di riferimento, no? E Gronchi nel 55, Napolitano nel 2006 e Mattarella nel 2015. Einaudi, il mito. Gronchi fu il leader della corrente di sinistra. Assolutamente. Vorrei ricordarlo, che è la corrente di Mattarella. Napolitano fu il primo postcomunista a gestire l'emergenza economica, di fatto dal 2008 non ha fatto altro che quello. E Mattarella, molti dicono che sia un ritorno alla normalità, forse lo sarà, di certo è vero che per ora è un colpo da maestro di Renzi. Non poi sai, dubbio. Da domani, cioè dal giuramento di Mattarella in poi, si gira un'altra storia. Io insisto nel dire che è come se avesse acceso un LED in 3D su una cosa un po' antica, sì, un po' polverosa, sì, cioè sì. È passato dal bianco-nero al colore con un linguaggio che è il linguaggio, sì, della modernità. Adesso una grande vittoria vediamo politica. Cosa farà, vediamo cosa farà con la presidenza. La presidenza cambia le persone, l'abbiamo visto. Non ti ricordi i primi 5 anni di Cossiga? Per i cristiani si chiama grazia di Stato. È così. Entra in un appunto della grazia di Stato. Vediamo, e ne avremo di cose da raccontare. Sicuramente. Si spera. E questa viene da Mykonos, una bellissima isola. È da là che noi veniamo. Ora siete della famiglia. Spanakopita! Grazie. Vinigliasas! Oppa! Oppa! Oppa, caro Minoli, quel grasso matrimonio greco, mi pare fosse questo il titolo di questo spezzone che abbiamo montato stamattina presto, mentre molti dormivano, altri invece si recavano al lavoro. Per parlare di cosa? Ovviamente di Grecia. Esatto. Beh, però questo Varoufakis è molto divertente, questo ministro delle finanze, no? Insomma, ha mandato a quel paese la troica, i mercati ballano, il sirtacchio ovviamente, a Bruxelles non sanno che fare, a Berlino pure, Renzi e Merkel si parlano, ho visto anche stamattina il premier italiano ha parlato della questione greca, pure la nostra devo dire, non è rassicurante sotto molti aspetti, vabbè. E insomma, però, la verità è che Atene non vuole altri prestiti, perché Varoufakis ne parla come se fosse della droga, no? Lui usa il termine addicted, cioè diventi proprio uno che è dipendente dalle iniezioni di denaro. Lui non vuol farlo. Ha dato l'incarico alla Lazard, banca fa importante, di curare un po' il debito. Insomma, la verità è che molti pensano che tutto questo la Grecia debba farlo. E che, insomma, se qualcuno ha letto quello che scrive Krugman, mandare un po', fare il vaffa alla troica non sia stato poi così male. Visti i numeri e le previsioni fatte in precedenza, devo dire che ci sono buone ragioni anche per farlo. Ricordo solo una cosa, però, perché vale la pena ricordarlo: che noi con la Grecia siamo esposti per 43 miliardi. Che non vedremo mai più. Quindi, io ve dico, come direbbero a Roma, io ve dico, sarà Maggio e De Sinistra ma ridateci i sorti, eh? Salamino! Che meraviglia di domenica ieri! Sergio Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica e il cielo stesso, offrendo un segno, si è fatto lindo e fresco di bucato per preparare il nuovo settennato. Dallo zucchero filato al surrogato tutto è sembrato essere un don dal ciel donato, e passetto passettino il corteo presidenziale, non senza un tratto prequaresimale, è andato a messa, scendendo lungo la via traversa, accolto dalle suore e dalla badessa. Mira il tuo popolo, oh bella signora. Non c'è stato bollettino che abbia dimenticato il discorsino. In ogni tavola non è mancato il risottino, lo spaghettino, e come è chiaro che con Mattarella la virtù è solo quella, nulla più ha fatto male, tantomeno le zeppole di carnevale che gustate a fine pranzo non han provocato il consueto lanzo. Risulta alle cronache che il nuovo presidente, già amato dalla gente, canta, balla e fa miau sol se canta bella ciao. È cattolico ma di innesto comunista, elegante nella figura, dal postal market di antica fattura ha ricavato la giusta postura. Piace già a Benigni e alla Cuccarini, farà felici adulti e piccini. Ma quanto sarebbe stato meglio Massimo D'Alema? Sarebbe stato. Quanto sarebbe stato meglio Romano Prodi? Sarebbe stato. Quanto sarebbe stato meglio Giuliano Amato? Sarebbe stato. Quanto sarebbe stato meglio Pier Ferdinando Casini? Sarebbe stato. Quanto sarebbe stata meglio Anna Finocchiaro? Sarebbe stata. Quanto sarebbe stato meglio con Walter Veltroni? Sarebbe stato. E quanto ci sarebbero divertiti con Silvio Berlusconi al Quirinale, sarebbe stata festa obbligatoria. Amen. Sarebbe stata festa obbligatoria, un continuo veglione, ma la morale è sempre quella. La morale è sempre quella. Penitenza con Mattarella. Sara, e tu? Tu Sara cosa stai pensando? Che ho male ai piedi. Con la Via Rose sotto so che stona, però ho male ai piedi. Giovanni, non so se l'hai notato, una differenza da quando ho letto un articolo che spiega come i tacchi alti, ma i tacchi quelli diciamo non meno di 5 centimetri e se sono sopra i 9 va benissimo, non trasformano solo le gambe, ma pare anche la carriera. Hanno fatto un esperimento. Una ragazza poneva delle domande a 90 uomini, ovviamente di età diverse. Quando aveva i tacchi otteneva molto più risposte positive, e fin qua non ci stupiamo, no? Ma la cosa sorprendente è che lo stesso esperimento è stato fatto con altrettante donne, e anche loro subiscono il fascino del tacco alto. Capito? Perché? Perché il tacco alto indossato tutto il giorno sul lavoro, ma questo è uno studio e non lo dico io, dimostra alle altre colleghe che si è disposte a privilegiare il potere di queste calzature rispetto alla comodità. Insomma, oggi che è lunedì, prendiamo atto che nella vita Sadda soffrì. Teoria e filosofia del tacco a spia. Hai capito? Mamma mia. Canzoniere, ce la fai? Non c'è chiedo nulla a nessuno io. Sono senza un amico, non ho un amico che sappia raccontare la mia storia, un amico che mi preceda dappertutto per evitarmi quelle spiegazioni che m'ammazzano. Non c'è una che sappia gustarmi. Ah sì, un'infermiera. Un'infermiera per amor dell'arte che conceda i suoi baci soltanto ai moribondi. 800 24 00 24, numero verde, questo è un classico di Buttafoco, non dovrebbe essere difficile, numero SMS 349 238 6666, gli dai l'aiutino, ma insomma... credo... l'aiutino, l'infermiera ci vuole, per amor dell'arte. Mix 24. Ancora una bolla, Mario. Nada. Ma la mission di Obama sugli utili delle imprese all'estero sarà possible o impossible? Vediamo un po', non lo so. Comunque il piano c'è, ve lo illustro rapidamente. Allora, l'idea è questa: siccome ci sono un sacco di utili fatti da giganti dell'industria americana di vari settori, da internet alle pilloline blu all'estero, allora bisogna tassarli. E siccome se ne sono creati nel corso degli anni, c'è un tesoretto che si è creato abbastanza grande, parliamo di un paio di trilioni. Allora, primo punto è mettere una bella tassa secca al 14%, e poi invece per gli utili futuri una tassa al 19%. In teoria, ricordo a tutti, questi utili dovrebbero essere tassati al 35%, ma siccome sfuggono al fisco e diventano sempre oggetto di contenzioso, allora diciamo Obama cerca un compromesso. Gettito previsto per la tassa secca, quella che dovrebbe in qualche maniera avviare questo percorso, 238 miliardi di dollari. Obama ha un solo problema: i repubblicani. Per il resto potrebbe anche farcela. Quindi non so se ce la farà in realtà. Però è interessante perché vedete che i livelli della tassazione sono molto bassi. Molto bassi. Quindi attenti, sì, a prendere Obama come modello di riferimento, perché in Italia la tassazione invece per chi paga le tasse è tremenda. È tremenda. Tremenda, punto. Ultimo salamino. Il rilancio di Forza Italia è tutta una finta. Non è vero che Silvio Berlusconi abbia ricavato una sconfitta dall'elezione di Mattarella. Ha vinto. Ha vinto. Il patto del Nazareno prevedeva infatti che fosse questo notabile cattolico e anche un poco comunista, anzi ma... molto comunista e poco cattolico a vincere. Ma chi te l'ha detto? Basta guardarlo, sai cosa diceva Longaresi? Non sono le idee che mi preoccupano, ma le facce che le rappresentano. E poi canta Bella Ciao, saluta Ness. Allora, il patto altresì prevedeva che si facesse il tentativo di sanare la scissione con Angelino Alfano, e il patto prevedeva che finisse male questo tentativo, giusto per confermare la figuraccia laddove, per dirla con Matteo Salvini, più che un attestato di stima alla persona, quello di Alfano fosse, votando Mattarella, un attestato alla propria poltrona. Non è vero dunque che le cose vanno male per Forza Italia, devono andare malissimo, perché questo è previsto dal patto del Nazareno. Il percorso di condivisione stabilito tra Renzi e Berlusconi consiste nel fatto che lui, Silvio, sta fermo e l'altro, Matteo, gli deve mangiare in testa. Il patto del Nazareno dunque sta in ottima salute, purché non si chiami il patto di Pasquale. Te lo ricordate? No. Mi è venuto incontro un pezzo di giovanotte che era così. Ah sì. Con delle spalle così. Ah, grosso. Ha guardato fitto fitto e mi ha detto: Pasquale, figlio di un cane. Alza la mano. Poh, mi ha mollato lo schiaffo. Tardate una schiaffa. Ma forte! E poi? Mi ha preso per petto. T'ha preso per... E mi sbatteva vicino al muro così. Allora, due. Ride, ride, ma poi pensavo. Ma scusa, ma perché non hai reagito? E che mi frega a me, questo Pasquale io? È così il patto. Quello non è un patto, è un piatto. È un'altra cosa. Professore Giorgio Simonelli. Buongiorno. Professore, grazie a Pietrangelo. Professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione all'Università Cattolica. Abbiamo saltato una settimana, ma siamo qui a cercare di scoprire con lei dov'è il canone. Ha una settimana in più di riflessione da farci. Guardi, si ricorda che quando 20 giorni fa avevamo parlato dei fatti di Parigi e del fatto che... Vabbè, la RAI non l'aveva coperti bene all'inizio. Cosa vi avevo detto? Meglio non coprire che coprire male, perché queste elezioni del Presidente della Repubblica sono andate veramente male per la televisione. Sono stati tre giorni, giovedì, venerdì e sabato, in cui siamo stati travolti da questa forma televisiva che tutti dicono in crisi ma che nessuno ha il coraggio di abbandonare, che è il talk politico. Talk politici su tutte le reti che hanno deciso di seguire, come era ovvio, ma tutti con la stessa formula. C'è una formula comune: studio con dibattito, collegamento con i luoghi dell'avvenimento e un conduttori anche bravi, collegamenti a volte gestiti da giornalisti o soprattutto giornaliste brave. Beh, sulla 7 la Sardone è straordinaria, per esempio. Ecco, non ci eravamo messi d'accordo, ma pensavamo da te. Però terribili gli spazi di studio. Sono momenti veramente difficili, anche perché quelli che sono abituati ad andare in televisione... Però Mentana dà il meglio in questo tipo di gestioni. Sì, però sono i personaggi che a volte sono imbarazzanti. In una elezione, come dire, così tattica, in cui è facile dover vedere dietro cosa c'è stato, il talk ha dato però il peggio di sé, perché questi personaggi anche di secondo piano, di secondo rango, anche giornalisti di secondo piano, si sono arrampicati sugli specchi per raccontare. Per una volta non sono d'accordo con Simonelli, perché l'elezione del Presidente della Repubblica di per sé è difficilissima da raccontare, è la cosa più difficile che c'è nella cronaca politica. Secondo me la diretta di Mentana era ottima, sì. Alessandra Sandrini ha fatto un bel lavoro, e anche i talk, sai, più di quello non potevano fare. Ma certe volte un film era meglio, forse. Un'idea diversa. Può essere. Qualcuno che avesse un'idea diversa di gestione di questo momento, ricorrendo alla ricostruzione della storia, della presidenza. Quello è chiedere troppo. Se non è zuppa, come si dice, è la stessa cosa. Allora, poco servizio pubblico dappertutto o tanto servizio pubblico superficiale, questo dice lei, professore. Soprattutto l'inventare, fare un po' di profondità, inventare anche dei formati diversi, certo, perché collocare l'elezione nella storia del paese. Perché, ripeto, il canone serve per far brillare delle idee, servirebbe. Invece tutti... Forte gli piace o non le piace? Forte mi piacerebbe se fosse forte. Se fosse forte invece, però aspettiamo. Aspettiamo, ormai è un po' andata, la chiudo, non lo sa. Aspetterei ancora un attimo. Aspetterebbe ancora, allora aspettiamo diamo ancora un po' di speranza alla Raffaella Nazionale. Lella da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sono emozionatissima. Perché? Perché parlo con lei e si immagina a quegli altri due signori che stimo tutti e tre moltissimo. Gastone da Petrolina. Pasolini, cantato da Petrolini. No, no, no, no, purtroppo. Aiuto. Però ci piace. Beh, però un ci saluto. Richiami. Però Gastone è bello. Diciamo, sì, sì, è bellissimo. La prossima volta gliela facciamo mettere da Pietrangelo. Certo. Peccato, signora. Buongiorno, buongiorno. Il 14. Professore, lei lo sapeva? A me sembra che sia l'Amleto di La Forga. No! Ah, ho sbagliato, professore. Professore sbaglia. Simonelli sbaglia. Sì. Questa è la notizia. Questa è la notizia. Mi raccomando, notizia all'Ansa. Simonelli sbaglia. Voglio dire, il 2 febbraio ha sbagliato. Il 2 febbraio non ci ha preso. Che figure che mi fate fare. Dai, dillo, Pietrangelo. Tocca a te dirlo, però. Come dobbiamo rivelare e non aspettiamo qualcuno? Aspettiamo domani, va bene. Domani va bene. Comunque il professore si è avvicinato, però. Si è avvicinato. Ah, ecco, questa è la notizia. Notizia, questa no, è l'altra. No, la notizia professore. È che ha sbagliato, prof. Senti, dunque, il 14 gennaio del 1875 nasceva Albert Schweitzer. Einstein lo ha definito l'uomo più buono del secolo, un medico, un teologo che ha dedicato la sua vita a curare i malati in Africa. Oggi raccontiamo, dopo il giornale radio, la sua storia. A Colmar c'era un famoso monumento all'ammiraglio Brouat. Sul basamento vi era scolpito il volto triste e meditativo di un negro. Ogni volta che lo vedevo, non potevo fare a meno di pensare all'arretratezza e alla miseria del continente africano. Fu quel volto a indirizzare i miei pensieri di bambino verso l'Africa. Per l'uomo veramente etico, ogni vita è sacra, inclusa quella che dal punto di vista umano sembra inferiore. Si fa lentamente strada la nozione che l'etica non riguarda solamente l'umanità, ma anche la specie animale. Ogni vita spirituale si trova dentro la vita naturale. Il rispetto per la vita vale dunque per ambedue. Dopo il giornale radio curato da Marina Milone, la vita di Albert Schweitzer, c'hai ancora una bolla, sì, velocissima? Sì, senti qua. Questa è l'intro di chitarra di Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses. Siamo in una giungla che è quella dell'Ucraina, una giungla molto fredda, dove sta succedendo di tutto. L'esercito di Kiev sta perdendo la guerra con i filorussi ucraini e a Washington hanno pensato di fare una cosa, stanno pensando di fare una cosa su cui io consiglio molta prudenza. Molta prudenza, cioè, sì. Pare vogliano armare l'esercito ucraino con armamenti pesanti. Ora, voi vi immaginate che cosa succede, perché vabbè, domani Kerry starà a Kiev, vediamo che annuncio fa, ma se ci provano alla Casa Bianca io sono sicuro che Putin non resterà a guardare. Stanno per aprire, io spero che ci pensino bene, una partita rischiosissima, molto molto molto rischiosa. Sì. Ricordo, dopo il giornale radio, la vita di Albert Schweitzer.